Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. İtabella'nın bugünkü konuğu 28 Temmuz 1972 Pisa doğumlu Petra Magoni. Petra Magoni çocukluk yıllarında pek çok çocuk korosunda şarkı söylemeye başlıyor. Arkasından uzun yıllar boyunca çeşitli türlerde vokal gruplarında deneyim kazanıyor. Alan Curtis'le antik müzik konusunda uzmanlaşmış, Livorno Konservatuarı ve Milano'daki Papalık Kutsal Müzik Enstitüsü'nde şan eğitimi alıyor. Şimdi fazla vakit kaybetmeden Petra Magoni yorumuyla Guarda che Luna'yı dinliyoruz ve ardından devam edeceğiz Petra Magoni ile. Questa notte senza te dovrò restare folle d'amore, vorrei morire mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto perché ho peccato. Che luna, guarda che mare. Guarda che Luna dinledik Petra Magoni'den. Petra Magoni'nin çok deli bir sesi var. Ben bir kere Karar'daki evimde yaşarken Petra Magoni dinliyordum ve bir arkadaşım böyle şey demişti. Bu deli kim? Çünkü o kadar içinden gelerek deliler gibi şarkı söylüyor ki bu kadın. Zaten dinlediğiniz noktada az sonra sayacağım isimler tarafından gerçekleştirilmiş pek çok seminere katıldığını, bu anlamda bir eğilimi olduğunu anlıyorsunuz. Bobby McFerrin, Sheila Jordan, Tranquay High, King Sisters gibi pek çok kişi tarafından düzenlenmiş bir takım seminerlere katılıyor. Bir yandan antik ve opera müziği konusunda deneyimler kazanıyor. Şimdi biz Petra Magoni'den enteresan bir şarkı dinleyeceğiz. Bu şarkının sözleri şöyle. Bir tek örgüçlü deve ve bir de çift örgüçlü deve bir gün karşılaşıyorlar. Fakir ama çift örgüçlü deve diyor ki istediğini alabilirsin ama çift örgüç bende. Şimdi Petra Magoni'den dinliyoruz. Il Camelio e Dromedario. Şimdi Itabella'da. Mm-hmm. incontrarono senza volerlo, per caso si guardarono un dromedario ricco ed un cammello povero, si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono, e ritornarono, si riguardarono, e il dromedario disse così: beh, perché tu c'hai due coppe ed io ne ho solo una, perché mi guardi imbambolato dalla duna, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se me la vendi una fortuna ti darò. Ed il cammello, essendo bisognevole, per un momento si dimostrò arrendevole, poi si guardò le coppe con occhio lacrimevole, e allora ci ripensò, e si le riguardò, la testa dondolò, e poi la sollevò, lo sguardo corrucciò, e il petto si gonfiò, e il dromedario disse così: sai che c'è? Io resto con due coppe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché son povero ma bello e nerboruto, e dalla duna io ti saluto e con due coppe me ne vo. La la la. Così si riconferma che il cammello è bigobuto e il dromedario monogobba resterà. Magoni'den dinledik. İl Camello e Dromedario. Zengin bir tek örgüçlü deveyle fakir bir çift örgüçlü devenin mücadelesini anlatan bir şarkıydı bu. Petra Magoni 1996 yılında ilk defa San Remo Festivali'ne katılıyor. Echisei şarkısıyla. Ve yeni teklifler kategorisinde katılıyor. Arkasından 1997 yılında Volume Dio parçasıyla katılıyor ikinci kez. Ve peşi sıra gelen pek çok televizyon yayında Tappeto Volento, Aria Fresca, Due Come Noi, pek çok böyle yapımlarda yer alıyor. Ve Kenatale şarkısını kaydediyor. Giorgio Panariello ile birlikte. Şimdi biz bu Kenatale parçasını dinleyeceğiz. Petra Magoni'den. Natale sei, non sei lo stesso, perché solo come me sei una festa a metà. Ma io ti aspetterò, so che passerai di qua, fuori fa freddo però dentro è come neve. Che Natale sei, sempre lo stesso, per quelle come me che non amano mai, perché una donna può scivolare dentro un sì, fuori c'è il sole, però dentro come piove. Fuori fa freddo però io verrò a cercarti qui dentro di me, dove confondi le mie idee, non si sa quando sarà, ma è già bellissimo così. Oh, tale sei, non sei lo stesso, per chi è solo come me, sei una festa a metà. Ma io ti aspetterò, so che passerai di qua. Verrò a cercarti qui dentro di me, dove confondi le mie idee, non si sa quando sarà, ma è già bellissimo così. Che Natale sei, che non fai regali mai, ma se mi porti da me, basterà il pensiero. Natale Sey'i dinledik Giorgio Panarello ile birlikte Petra Magoni'den. Az evvel bahsettiğim San Romeo'ya katıldığı Volume Dio parçası aynı zamanda 1997 yılında yayınladığı Muluni Evento albümünde de kendine yer buluyor. Bu parça şöyle bir şeyden bahsediyor. Ben bir tanrı istiyorum, mucizeler yaratmayan ama günlerimi daha büyülü kılan ve gerçeklerime daha yakın olan. Petra Magoni'den dinliyoruz. Volume Dio, şimdi Açık Radyo'da. Voglio un Dio come cibo alla fame. vedo, anche se non ti amo, anche se non credo. Voglio un Dio che non muoia tra lotte politiche, che risorga cambiando le regole, e se ha tempo che passi di qua. Voglio un Dio di Nedik, Petra Magoni'dan, ki bu parça aynı zamanda Sanremo'ya katıldığı parçaydı. 2003 yılında Ferruccio Spinetti ile tanışıyor ve arkasından ikili muhteşem bir proje olan, ben bayılıyorum bu albüme, Musica Nuda, çıplak müzik projesine hayat veriyorlar. Şimdi bu oluşumdan iki tane şahane cover sizlerle olacak. Öncelikle Fever, arkasından da Like a Virgin, Musica Nuda albümünden Petra Magoni ve Ferruccio Spinetti birlikteliğinden geliyor. Itabella'da, Itabella Açık Radyo'da. I love you, I never know how much I care. But when you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, a fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through tonight. The sun lights up the daytime, the moon lights up the night. I light up when you call my name, 'cause I know you're gonna treat me right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Da-da-da, da-da-da. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie baby, you're my flame. Now give me fever when we kiss it, fever with that flame in you. Fever, oh, I'm on fire. Fever, yeah, for you. Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, Miss Mrs. Daddy, won't you treat him right? Listen to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it fair and have the sense of giving fever. When they kiss you, fever, if you leave them lover. Fever, I'll tell you, sizzler, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Petra Magoni'den dinledik Fever ve Like a Virgin. Ki bence iki tane muhteşem cover'dı, az önce de söyledim. 2004 yılında Magoni ve Spinetti ikilisi İtalyan bağımsız müzik ödülleri olan PIMI'de, Premio Italiano Musica Indipendente'de özel proje ödülüne layık görülüyorlar. Aynı yıl Monica Demuro ile birlikte Sconcerto di Canzoni ed Epica projesinde birlikte oluyorlar. Birlikte sahneye çıkıyorlar. 2005 yılında da 1 Mayıs konserine katılıyorlar. Sonra 2006 yılında Musica Nuda Due diye bir çift albüm çıkartıyorlar. Şimdi yine Musica Nuda'lardan birinden, Musica Nuda'dan Petra Magoni ve Ferruccio Spinetti'den geliyor. Pezzo il Mondo. Arkasından da Come Together şimdi Açık Radyo'da. Pazzo il mondo pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in una rezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato. Ha resistito, poi d'un tratto è sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato e poi l'hai liberato. Pazzo il mondo pieno di incertezza. Nella miseria tu sei l'unica ricchezza. Perduto in un parcheggio malamente illuminato, povero cane con un calcio allontanato, ma tu l'hai ritrovato, un nome gli hai fischiato e lui si è avvicinato. Caro il mio amore, sprecherò il tuo nome sui muri di quartiere, sul vetro di un portone. Come lunga questa strada, nascosta sotto ai fari, sarà come credevi, sarà quel che aspettavi. Pazzo il mondo senza una carezza, in ogni lacrima una traccia di purezza, e brucerò ogni giorno in una vampa di furore. Se devo vivere sarà di crepacuore, mi prendo anche il dolore, lo pago al suo valore, al costo dell'amore. Passa il mondo, non c'è più salvezza, solo i tuoi occhi, la tua tenerezza, accesa alla finestra come un vecchio candeliere. Do caccia al buio per non farti mai cadere, così potrai vedere, così potrai sapere. Caro il mio amore, sarai mai consumato da questo sguardo triste che un giorno è ricambiato. Era nel fresco di una sera, sul ciglio dell'estate, ricordi che risate. Caro il mio amore, mi stringi che fai male, non voglio più sapere, non voglio mai imparare. Ho tutto quello che mi serve, i tuoi capelli sul cuscino, vederti da vicino. Pieno d'amarezza, pazzo il mondo, pieno di incertezza, pazzo il mondo senza una carezza. He come flat, he come grooving up slowly, he got yo-yo eyeball, he one holy roller, he got hair down to his knees. Got to be a joker, he just do what he please. He wear no shoe shine, he got jump football, he got monkey finger, he shoot Coca-Cola, he say I know you and you know me. One thing I can tell you is you got to be free, come together right now over me. He got Walrus Gumboot, he got almost cyborg, he won spinal cracker, he got feet down below his knee. Hold you in his arms, sure you can feel his disease. Come together right now over me. come together right now. Move on me. Bugün Itabella'nın konuğu Petra Magoni. Petra Magoni'den iki parça arka arkaya dinledik az önce. Come Together ve öncelikle Pezzo il Mondo, arkasından da Come Together dinledik. Şimdi yine bir cover dinleyeceğiz. Fakat enteresan bir şekilde cover'ın cover'ı diyelim bu parçaya. Bu bir Franco Battiato parçası, dinleyeceğimiz parça. Fakat bu parçayı da Battiato... La Chanson de Vieux Amour, Jacques Brel'den yeniden bir kaybı keşfeder gibi yeniden bizim için buluyor. Petra Magoni de bu can sıkıntısının anlatımını diyeyim, yani bir can sıkıntısı anlatımını bizimle paylaşıyor. La Canzone dei Vecchi Amanti ve hemen arkasından da bir diğer Jacques Brel klasiği olan Non andare via, Nume Kitpa'nın İtalyancası olan Non andare via, Musica Nuda, Petra Magoni yorumuyla hemen arka arkaya şimdi Açık Radyo'da Itabella'da. Certo ci fu qualche tempesta, d'amore alla follia. Mille volte tu dicesti basta, mille volte io me ne andai via. Ed ogni mobile ricorda in questa stanza senza culla i lampi dei vecchi contrasti. Non c'era più una cosa giusta, avevi perso il tuo calore ed io la febbre di conquista. Mio amore, mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. So tutto delle tue magie, tu della mia intimità. Sapevo delle tue bugie, tu delle mie tristi viltà. So che hai avuto degli amanti, bisogna pur passare il tempo, bisogna pur che il corpo esulti. Ma c'è voluto del talento per riuscire ad invecchiare senza diventare adulto. Mio dolce, mio meraviglioso amore, dall'alba chiara finché il giorno muore, ti amo ancora, sai, ti amo. Amarsi con monotonia. Adesso piangi molto dopo, io mi dispero.

che sciocco sei a parlar di rughe e a parlar di vecchie streghe. Meno bello certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi per non ferirsi di più. Lasciami giù qui, è la solita prudenza. Loro senza me, hai detto, è un problema di coscienza. Certo che lo so, non ti preoccupare, tanto avrò da lavorare, forse è tardi e rincasare vuoi. No che non vorrei, io sto bene in questo posto. Presto, ma che sciocco sei a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe. Meno bello certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Nasce l'esigenza di sfuggirsi e non ferirsi di più. Petra Magoni bir Batista klasiği olan Prendila Così ile bizlerleydi. Şimdi ta 1958 yılından bir Mina klasiği olan Nessuno'nun Petra Magoni yorumuyla birlikteyiz. Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore che il cielo ci dà sempre vivrà. Nessuno, ti giuro, nessuno può darmi nel dono di tutta la vita la gioia infinita che sento con te, solo con te. Sei tu, dolcissimo amore, soltanto tu, passato a venire, tutto il mio mondo comincia da te, finisce con te. Nessuno, ti giuro nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità. Nessuno, nemmeno il destino ci può separare, perché questo amore si illuminerà di eternità, di eternità. Petra Magoni bizlerleydi Nessuno'yla. Şimdi 2011 yılından galiba. Yine bir Musica Nuda. Petra Magoni ve Ferruccio Spinetti birliklerinden. Complice albümünden bir parça gelecek. Vado Giù. Aşağıya gidiyorum. Burada bu kadar küçük bir adam nasıl bu kadar güçlü olabiliyor? Ruhumu karıştırmak için kim bilir ne kadar basit bir günü ne kadar karıştırabiliyor diyor. İşte şimdi bu parçayla Petra Magoni Açık Radyo'da. E come fa un uomo così piccolo ad essere così forte, ad essere così? E come fa un gesto così timido ad essere così libero? Farà. Dov'è che va la vita quando non è qua a mescolarsi l'anima o chissà? E come fa un giorno così semplice a complicarsi tutto che sembra di non farcela? Come si fa se non si può sorridere, se l'aria si fa spessa, se il tempo sembra cenere? Dov'è che va il pianto quando non è qua a liberare l'anima o chissà? Vado giù, vado giù, vado giù a nascondermi e non lo so mica perché. Forse per rimanere un po' sola con me, per parlare con me. Vado giù, dove trovo la musica quando non c'è? Cosa illumina l'anima dentro di me? Devo andare a vedere giù in fondo che c'è. Vado giù, dove trovo la musica quando non c'è? Cosa scritto dall'anima dentro di me? Devo andare a vedere giù in fondo che c'è. Vado giù, vado giù, vado giù per difendere quello che resta di me, per sorprendermi a scrivere versi per te, per tornare a sorridere. Vado Giù dinledik Petra Magoni'den. Itabella'nın konuğu bugün Petra Magoni'di, Pizzalı müzisyen. Şimdi Itabella'yı kapatırken benim, Canan'ın ve Sera'nın, ki onlar benim kızlarım, çok severek evde dans ederek dinlediğimiz Anima Animale ile kapatacağız. Cansın Sayesen ben, Itabella'daydınız. Hoşçakalın. Anima, animale. dentro di me. Sguardo antartico, con la tua fragilità, tu che stai con me sempre quando mi accoccolo, come se sapessi già che cosa c'è. Thank you.